il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Ci stiamo avvicinando a un appuntamento importante per il Veneto come quello del Vinitaly. È quindi questo forse il periodo migliore per parlare di un prodotto come il vino. Così abbiamo pensato di dedicare adesso due puntate, ma non al vino in generale, piuttosto cercare di scoprire come può essere un elemento che aiuta a valorizzare il territorio e l'ambiente in cui viene prodotto. Oggi parleremo quindi di vino biologico, mentre la prossima settimana parleremo di strade del vino. Nostro ospite della puntata odierna è qualcuno che di produzione biologica se ne intende, ovvero Ivo Nardi, titolare dell'azienda Perlage di Farra di Soligo, un'azienda che si sta facendo conoscere a livello internazionale perché è tra le poche a produrre prosecco biologico ed è anzi l'unica a produrre prosecco DOCG ed essere all'interno del consorzio di tutela del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Benvenuto Ivo Nardi. Grazie. Le faccio subito una domanda. Il binomio bio e vino inizia a prendere piede, ma a differenza di quello che è successo per altri prodotti agricoli biologici, mi dà l'impressione che questo avvenga non tanto perché esiste un mercato da accontentare di persone che desiderano il vino bio, quanto per la volontà di produttori come i vostri, che potremmo definire, tra virgolette, illuminati. È un'impressione corretta? Beh, sicuramente la nostra esperienza è stata un'esperienza pioniera, perché siamo partiti quasi 30 anni fa con questo percorso, quindi in un contesto più di riflessione nel rispetto dell'ambiente, no? Non da richieste specifiche di mercato. Però la situazione è in rapido mutamento, perché l'interesse sta crescendo soprattutto nei mercati esteri, ma anche in Italia l'attenzione verso i prodotti biologici freschi, ma anche il vino, è indubbiamente un trend molto positivo, e noi lo vediamo proprio quotidianamente per la quantità di richieste, di contatti, no? Anche da parte di consumatori privati che chiedono notizie, vogliono approfondimenti, sono curiosi e ovviamente vogliono poi alla fine anche un riscontro qualitativo che non può mai mancare. Ecco, anche la legislazione mi pare che vi stia venendo a dare una mano, perché da adesso si può anche parlare di vino bio, mentre fino all'anno scorso non si poteva. Questo è stato straordinario, perché finalmente ci ha permesso di avere una dignità nostra, una identificazione precisa, quindi non una interpretazione, dire io faccio un'enologia che è, come si dice, genericamente naturale. Invece ora c'è un disciplinare di enologia che identifica i vini biologici e stabilisce con molta precisione cosa è biologico e cosa non lo è, no? Quindi regola questo metodo di produzione e chiunque può consultarlo e vederlo e capire quali sono le restrizioni in essere rispetto a quanto succede invece per i vini convenzionali. Quindi questo ha dato ulteriore forza al nostro prodotto, sicuramente. Certo, mentre prima si poteva avere vino da uve biologiche, quindi poteva essere biologica solo la materia prima, però non il resto. Esattamente, però poi in cantina era una declinazione più o meno sostenibile, perché non c'era una regola specifica. Ecco, ma fa un po' strano parlare di prosecco e biologico, cioè un prodotto complesso come le bollicine. È possibile anche questo? Intanto, ritornando un attimo al vigneto, direi che la coltivazione biologica è straordinaria, perché si atteggia nel rispetto della vita, no? dell'ecosistema vigneto. Quindi il viticoltore biologico deve entrare in vigneto senza lo spirito di distruzione, ma solamente di modificare gli equilibri vitali che ci sono, modificarli temporaneamente per far sì che l'uva che si possa raccogliere sia bella, di qualità, eccetera, e di gradazione, no? E alla fine del raccolto tutto l'equilibrio deve tornare al suo stato originario, no? Come la natura lo ha dettato. Quindi la vita deve ritornare nella sua pienezza, tutti gli insetti devono continuare a fare il proprio lavoro, perché la vitalità del vigneto dà anche la qualità del prodotto. Nel territorio del Prosecco la cosa è ancora più interessante, perché siamo in un territorio, soprattutto la zona del Conegliano e Valdobbiadene, che è molto delicato, no? È un territorio collinare, fragile, che va ulteriormente rispettato, perché se si interviene con mezzi forti, dirompenti, si ha proprio un rischio di crollo, no? Del sistema. Certo. E questo direi viene fatto già con molta attenzione da parte di tutti i viticoltori, però il sistema si sposa, a mio avviso, benissimo col metodo biologico. Quindi anche promuovere questo metodo significa anche rendere più sano il territorio, quindi cioè, non c'è solamente un vino, ma soprattutto dove c'è una coltivazione così intensa, l'attenzione a quello che si sparge nell'aria, si sparge nella terra e anche a come si rispetta l'ambiente, ovviamente ne guadagna la salute, soprattutto poi di chi ci lavora. Sicuramente, prima per chi ci lavora, poi perché la viticoltura la produzione di vino è sempre legata al enoturismo, quindi visite nei luoghi, quindi più sono sani gli ambienti, più si entra volentieri nel sistema di produzione. Inoltre è molto importante anche il rapporto che c'è tra viticoltore e popolazione residente, no? Quindi se usiamo dei prodotti a basso impatto si crea anche una forza proprio della comunità che vive l'intero territorio, perché c'è la convinzione che si rispetta, no? Sia il vigneto ma anche chi sta attorno al vigneto. La forza, no? Diventa ancora più grande, più importante per comunicare il nostro prodotto e per dare contenuti immateriali al nostro prodotto. Certo, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. È lo giorno buono, stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, osteria e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me, c'è vuol che vada a farmi, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabrielino, sa dormo dopo che non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi, non sa poi capisero dolce po' d'apere. Bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi, la principessa in la miseria, mi sono munda su ciunizzi, parata piccolina, che non sono se realizzi, ti cancellassi tutte le rughe e tutte le cose triste. Hey. Hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello, è con me. Se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud, guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro, e son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. È lo giorno buono, stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, osteria e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me, c'è qualche vada a farmi, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabrielino, sa dormo con pochetto, non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi, non sa poi capisero dolce po' d'apere. È lo giorno buono. È New York no boh, è New York no boh, è New York no boh, è New York no boh. Stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, osteria e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me, c'è qualche vada a farmi, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabrielli. Sa dormo dopo che non sa dei miei problemi, non sa di questi schemi, non sa voi capite lo dolce po' Napoli. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. A mio zig se scelta Madrid, a Gennaro che ha avuto creatù, e pisciaiole, fruttaiole, e tutta gente l'orio. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di vino biologico, lo stiamo facendo con Ivo Nardi dell'azienda Perlage di Farra di Soligo, uno dei più importanti produttori di vino, in particolar modo di prosecco biologico. Ecco, parliamo di prosecco, quindi un vino al quale siamo abituati e con un certo gusto. Si pensa che il vino bio in generale, e in particolar modo forse le bollicine, prendono un gusto diverso magari se è biologico. Questo non so se sia vero o non sia vero, e nel caso ci si può abituare anche ad un gusto un po' diverso. No, cioè direi che la qualità non si può prescindere, insomma la qualità non si può escludere, non si può evitare, è la cosa più importante che ci deve essere. Quindi il metodo di produzione non può assolutamente mettere in discussione quello che è il risultato finale dei nostri prodotti. È ovvio che ci può essere una maggiore complessità per raggiungere questi obiettivi, però l'esperienza accumulata negli anni ormai permette di essere assolutamente a pari livello di tutti gli altri prodotti. Quindi convenzionale e biologico non rappresenta, almeno nel sistema prosecco, una differenza. Anzi, direi che a volte abbiamo contenuti organolettici più armoniosi e più intensi rispetto a quanto si può ottenere col metodo chimico, che è invece un po' più forzato, no? C'è infatti chi dice che appunto da una coltivazione biologica, quindi molto più attenta, si riesce anche a mantenere maggiormente i profumi, gli aromi proprio del territorio, per il fatto che c'è stato meno intervento anche dell'uomo. Esattamente, in quanto c'è più armonia, no? Tra il luogo di produzione, non c'è forzatura, c'è rispetto degli equilibri, come dicevo prima, sul vigneto. E questo è come in ogni cosa, no? Il benessere del prodotto si ritrova poi anche come benessere, come qualità finale nel bicchiere. Ecco, voi fate anche dei prodotti biodinamici, non solo biologici, però non tutti i tipologie di vino. Perché c'è una complessità maggiore, anche se tendenzialmente si tende sempre più a andare verso quella direzione, no? Magari si lavora in quella direzione senza arrivare alla certificazione, però ci sono delle ricerche, delle evoluzioni proprio sul metodo di coltivazione che ci stanno facendo avvicinare moltissimo al sistema biodinamico, e direi che quello è proprio il massimo del rispetto, certo, per l'ambiente. Ecco, parliamo anche di quantità, se ci sono un po' dei dati. Lei diceva prima che soprattutto all'estero, anche un po' in Italia, dove viene maggiormente consumato questo vino, e anche di che dimensione stiamo parlando, cioè che percentuale nella produzione totale? Siamo sempre su mercati di nicchia, no? Il biologico probabilmente in Germania ha le soglie più importanti, parlando non solo di vino ma di consumo di prodotti biologici, probabilmente siamo intorno al 10%, in Italia forse siamo più in 3-4%, quindi valori piuttosto bassi. Però se si arrivasse a un 10% non sarebbe poco anche in Italia? Sì, infatti cresce, no? La domanda cresce e c'è quindi un trend che si proietta avanti negli anni, e con una curva, insomma, in incremento che sarà duratura e costante per parecchi anni. Questa è una percezione che abbiamo molto chiara. In Italia la domanda ha avuto una svolta alcuni anni fa e ora viene rafforzata, perché anche le grandi catene stanno inserendo prodotti nelle grandi superfici biologiche e prodotti biologici nelle grandi superfici, quindi ci si rende conto che mettendo questi prodotti dove abitualmente non c'erano, comunque le persone le prediligono e li scelgono. Bene, io la ringrazio, abbiamo un po' esaurito il nostro tempo, grazie per aver fatto un po' il punto su questo mondo nicchia all'interno del mondo del vino, ma così importante. E se qualcuno capitasse al Vinitaly, penso che ci sarete, comunque c'è tutto un settore dedicato al vino biologico. Se qualcuno capita dalle parti dei colli dove si produce il prosecco, li invitiamo a venirvi a trovare a Farla di Soligo, se non sbaglio. Sì, precisamente, sì. C'è un sito internet dove possono trovare informazioni su di voi? Sì, abbiamo www.perlagewines.com e lì trovano tutto. Benissimo, grazie ancora. A lei, buona giornata. E passiamo adesso alle consuete notizie. Secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro, i cittadini europei promuovono la PAC, la politica agricola comunitaria. I risultati evidenzierebbero che oltre tre quarti degli intervistati ritengono che la PAC sia vantaggiosa. Oltre il 90% dei cittadini approva i principali orientamenti della nuova politica agricola 2014-2020, come la creazione di un vincolo tra gli aiuti finanziari concessi agli agricoltori e il rispetto delle pratiche agricole benefiche per l'ambiente, il cosiddetto greening. Gli europei attribuiscono sempre più importanza all'agricoltura, che viene considerata insieme allo sviluppo delle zone rurali un valore importante per il futuro. È stato approvato lo scorso 20 marzo in Consiglio regionale Veneto un emendamento in merito alla combustione controllata sul posto di ramaglie, tralci e materiale vegetale residuo, ovvero gli scarti derivanti dalle operazioni di potatura, sfalcio, manutenzione e cura della campagna. Il Veneto si allinea così ad altre regioni, responsabilizzando i comuni sulle specificità del loro territorio. Saranno infatti le amministrazioni comunali ad individuare le aree, il periodo e gli orari in cui sono consentiti i fuochi sul terreno nel rispetto delle normative vigenti. Infine, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto che recepisce la normativa europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dall'entrata in vigore del provvedimento, chi vorrà smaltire un piccolo elettrodomestico, come una lampada o un telefonino, potrà portarlo in un grande negozio dove provvederanno i gestori dell'esercizio commerciale a smaltirlo a norma di legge. Fino a ieri vigeva per i rivenditori l'obbligo dell'uno contro uno, ovvero il rivenditore doveva ritirare e smaltire il vecchio elettrodomestico che l'utente sostituiva. Con il nuovo decreto sarà possibile invece conferire ai distributori con superficie di vendita di almeno 400 metri il vecchio elettrodomestico senza l'obbligo di comprarne uno nuovo. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento anche al nostro sito internet, dove ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.